Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. La voglia di andare controcorrente è un carattere dell'uomo. Serve a immaginare nuove dimensioni. È un tratto essenziale per la cosiddetta creatività. Tutti i più grandi artisti hanno avuto in un momento della loro vita un incontro con la trasgressione, con l'ambiguità, oltrepassato il quale hanno sperimentato la popolarità o l'oblio. I due protagonisti di Destini incrociati di quest'oggi sono accolti dal pubblico di tutto il mondo come artisti riconosciuti. Eppure c'è stato un momento della loro carriera nel quale il loro nome era sinonimo di scandalo. Cominciamo dal primo protagonista di oggi. Il suo nome è Amanda Lear. Amanda Lear. E allora chiediamo a lei stessa di raccontarci la sua storia. Parliamo un po' di quello che ho fatto recentemente, perché se comincio a parlare di quello che ho fatto 30 anni fa, cioè a me non interessa, veramente non mi interessa in assoluto. Siamo nel 2010, l'importante è quello che sto facendo adesso, e questo è l'importante. Ha certamente ragione, Amanda. Un artista vuole celebrare il suo presente. Ma per capire l'Amanda di oggi è per noi essenziale ripercorrere la carriera di questa eterna ragazza che fa dell'ironia il suo punto di forza, che sfida le convenzioni e non si preoccupa troppo di essere politicamente corretta. Lei è un'artista a tutto tondo. Dipinge, canta, recita. Una donna eclettica, in grado di passare con disinvoltura dalle luci stroboscopiche delle discoteche alla magia del teatro, dal mondo dell'arte a quello della televisione. Un'apertura mentale rara, coltivata sin da ragazzina ed esaltata dall'incontro del destino che le ha cambiato la vita. Ma partiamo dall'inizio. Amanda Lear è il nome d'arte di Amanda Tapp, nata a Hong Kong presumibilmente nel 1946. Diciamo presumibilmente perché le date sul suo conto non sono chiare. In effetti Amanda da sempre si diverte a confondere le acque. A Parigi negli anni 60 dipinge, frequenta la scuola d'arte, è affamata di conoscenze. E affianca gli studi con l'attività di modella, lavoro che la porta successivamente a Londra. È qui che, grazie alla collega e amica italiana Anita Pallenberg, conosce Brian Jones dei Rolling Stones e altre rockstar dell'epoca. Anita è la compagna di Keith Richards, chitarrista degli Stones, e la può introdurre negli ambienti che contano. Gli Stones hanno appena dedicato all'amica di Amanda la loro splendida ballata Angie. In questo periodo con Anita, Amanda inizia ad apparire nelle cronache mondane e scandalistiche inglesi. Una sera, Amanda è proprio con Brian Jones quando incontra uno degli uomini che più ammira al mondo. Un cronista ci racconta così l'episodio. Era il 65, Amanda aveva circa 20 anni, bionda, fisico pazzesco, si circondava di amici artisti e stravaganti, studiava ancora belle arti. Una sera a Parigi entra in un ristorante, con lei c'è anche Brian Jones dei Rolling Stone. Su una specie di trono è seduto Dalí, il maestro del surrealismo, adorato da chi gli sta intorno, nel pieno del suo successo. Per lei è una folgorazione. È così che Amanda ha il primo contatto con l'avanguardia surrealista rappresentata da Salvador Dalí, di cui lei diventa la musa. Quella che sentite è la colonna sonora di Un Chien Andalou, un cortometraggio del 29, il film chiave dell'avanguardia surrealista, scritto, diretto e interpretato da Luis Buñuel e Salvador Dalí. Il rapporto tra i due è stranoto. Pagine e pagine sono state scritte sul tema, i loro destini si sono incrociati nel nostro programma. Amanda vive per anni in Spagna con Salvador Dalí e sua moglie Gala, prima sposata con un altro grande surrealista, Paul Éluard. Con Dalí, fervido sostenitore della tesi «L'arte non è per le donne», Amanda riesce perfino a lavorare. Tuttora, nella casa museo di Dalí a Figueres, vicino a Barcellona, dove è nato, sono esposte opere della Lear. D'altra parte, Parigi in questi anni è la culla della cultura. Gli intellettuali bohemien vivono sulla rive gauche della Senna e si ritrovano nei caffè ad ascoltare jazz e parlare d'arte. La guerra di Algeria appena finita ha lasciato un malessere nella società e i giovani si fanno portavoce della rivolta contro le istituzioni che pontificano sui costumi con atteggiamento moralizzante. È in questo clima che un gruppo di cineasti, tra i quali Truffaut, Godard, Romer, fonda quel movimento, quella nuova onda che in tutto il mondo verrà conosciuta come Nouvelle Vague. Il nostro affetto sta per nascere, bisogna lasciarlo tranquillo come un bambino. Lei è già stato innamorato sul serio, si sente. Perché non lo sposate? Così non so. Com'è? Ragionevole e paziente. Dice che mi aspetterà sempre. Si chiama Gilbert. Vi volete ancora bene? Non la faccia soffrire, Jim. Ho bisogno di cose nuove e di rischi. E poi c'è un'altra cosa. L'ammiro, Catherine. Mi piace troppo vederla. Temo di dimenticare Jules. Non bisogna dimenticarlo, bisogna dirglielo. Era Jules et Jim, celeberrimo film di Truffaut del 62. In questi anni Parigi è inquieta. La generazione degli studenti, la stessa di Amanda, è disinvolta. Ha voglia di cambiare il mondo. Sulle note degli chansonniers come Jacques Brel si gettano le basi per i moti studenteschi del 68, che dalla guerriglia urbana di Parigi invaderanno il mondo. L'atmosfera di quegli anni è raccontata in modo splendido da The Dreamers, film del 2003, diretto da Bernardo Bertolucci. Scusa, se metti un'altra volta quel disco del c***o, lo rompi in due, ok? Ti piace tanto Janis Joplin? Basta! Ho detto basta, Isabel! Fred Astaire balla il tip-tap sopra la camera di Ginger Rogers. Per Amanda è difficile passare inosservata, anche solo camminando per strada, entrando in un ristorante, posando come modella. Difficile confonderla con le centinaia di modelle che affollano le copertine dei giornali. L'ambiente ideale di Amanda sembra essere il palcoscenico. Ha una forza espressiva che non si può incanalare in un'immagine statica. Se ne accorge subito l'uomo che nel 73 vede la sua fotografia stampata sulla copertina di un album. Un uomo che con lei ha in comune lo stesso carattere stravagante, la stessa personalità ambigua e trasgressiva. Ma racconteremo più tardi di questo incrocio di destini. Amanda si compiace di dare scandalo, di fare scalpore. Gli anni 70 sono cominciati e sembrano prepararle la scena. C'è aria di libertà e voglia di trasgredire. Spagna e Portogallo escono da anni di dittatura, rispettivamente con Franco e Salazar, e vedono reinstaurarsi progressivamente la democrazia. Ovunque ha un grandissimo successo Valentina, l'eroina in bilico tra fantascienza, spionaggio ed erotismo, partorita dalla fantasia di Guido Crepax. E se il successo di Happy Days riporta in voga la compostezza e il bon ton degli anni 50, il fenomeno Rocky Horror Picture Show sconvolge le masse. How do you do? See you've met my faithful hand in hand. He's Sono un dolce travestito, sono un transessuale, canta Inge Pierre Frankenforter, uno dei protagonisti del Rocky Horror Picture Show, manifesto del travestitismo. È inevitabile che in questo clima di rottura, dove i generi sessuali sono mescolati e la trasgressione portata all'estremo, anche l'Italia provinciale e puritana cominci ad aprirsi. Sono gli anni della commedia sexy all'italiana, nella quale trionfano erotismo leggero e doppi sensi. Un genere popolarissimo, di cui Alvaro Vitali, Lino Banfi, Edwige Feneck e Gloria Guida sono i beniamini. Un tipo di cinema considerato da sempre di serie B e solo recentemente rivalutato da registi come Quentin Tarantino, che addirittura ne ha fatto uno dei modelli di ispirazione per i suoi film. Il sesso negli anni 70 diventa esplicitamente il motore del mondo. E Amanda Lear, provocatoria ed eccentrica, con la sua carica erotica mescolata alla voglia di giocare e di trasgredire, incarna perfettamente lo spirito del tempo. Sulla sua scia in Italia sbocciano altre creature ambigue. Ivan Cattaneo, Cristiano Malgioglio, Renato Zero. Ovunque ambiguità è la parola chiave. I ruoli sessuali sono confusi, gli stereotipi abbattuti. Sull'onda del femminismo vengono a cadere i tradizionali modelli di riferimento maschio-femmine, all'insegna di un erotismo più aperto e giocoso. Il corpo non è più solo un involucro, ma uno strumento attraverso il quale combattere il moralismo e le etichette e acquisire consapevolezza e libertà. Amanda non è solo un'artista, ha anche la capacità di sintetizzare questo momento storico. Ho fatto l'amore con me, mi sono amata da me, e figuriamoci se ci cascavo con te. Gli anni 70 sono il trionfo del kitsch. Dopo il periodo dell'impegno civile e politico, i ragazzi cercano divertimento, leggerezza e trasgressione. Trucco pesante, look eccessivi, paillette e lustrini. I giovani di tutto il mondo seguono la moda glam, nata in Inghilterra come antidoto all'austerità dominante. È in questo clima che nascono le prime discoteche, i luoghi perfetti per quella musica che non si ascolta, ma si balla. Il modello è lo scintillante ed esagerato Studio 54 di New York. Oh, È proprio il mondo della disco a rappresentare di più la carriera di Amanda Lear, che ne diventerà la regina grazie all'incontro che le cambierà la vita con un uomo di origini inglesi, il suo corrispettivo maschile, David Bowie. David Bowie, carismatico, sexy, star della musica mondiale, si dichiara bisessuale e gioca con la sua identità mettendo in atto delle vere e proprie trasformazioni ogni volta che esce un suo album. Ziggy Stardust e il Duca Bianco sono solo due dei suoi personaggi. Lui è l'altro protagonista della nostra storia. È lui che scopre Amanda e ne accenderà la vena artistica. È il 1973 e Amanda, giovane modella, viene contattata da Brian Ferry per posare per la copertina del nuovo album dei Roxy Music dal titolo evocativo For Your Pleasure. Sfondo nero notturno metropolitano di una Los Angeles al neon, una scultorea Amanda in plastiche movenze tiene al guinzaglio una pantera. L'artista Ferry sullo sfondo la osserva, divertito, appoggiato alla portiera di una Lincoln Continental. Quando Bowie vede la foto, è un colpo di fulmine. Vuole conoscere quella modella che con fare annoiatamente chic porta a spasso un gattone nero. In quella foto ci sono già tutti gli elementi di uno stile che verrà codificato negli anni Ottanta. Bowie è istintivo e prova un'attrazione per quel mondo. Il mondo dandy di Ferry e dei Roxy Music è un riferimento e quella donna per lui è un tramite. Per chi fa musica, Londra è un posto piccolo dove tutti si conoscono. L'occasione non tarderà ad arrivare, come ci racconta lei stessa. David Bowie l'ho conosciuto quando ho fatto la copertina del disco di Roxy Music. Roxy Music mi ha contattata, Brian Ferry ha voluto questa foto incredibile con la pantera nera, eccetera. E David Bowie si è innamorato, perso completamente per questa foto. Ma sta ragazza che fa pazzesca, oh che bello sto vestito, la pantera, gna gna, la voglio a tutti i costi conoscere. Bowie è il Dorian Gray del rock, eternamente giovane e sempre capace di reinventarsi per sconvolgere. I suoi album sono acclamati dalla critica, sono un successo dopo l'altro. Lui è bellissimo, affascinante, sexy. Donne e uomini impazziscono per lui, ma non gli basta. La provocazione è quello che cerca. Essere inquadrato, collocato in un gruppo, è proprio quello che rifugge per tutta la vita. È un dandy innamorato di se stesso e che di se stesso vuole fare un mito. Miss Slade? Dica. Io volevo soltanto farle qualche domanda, non dovrei metterci molto. Dal momento in cui Brian Slade entrò nelle nostre vite, niente fu più come prima. Non ha molta importanza cosa fa un uomo della sua vita. La cosa importante è la leggenda che si crea attorno a lui. Potrei fare di te una star. Baby's on fire. E Velvet Goldmine, un film del 1998 diretto da Todd Haynes e prodotto da Michael Stipe, leader dei REM. Velvet Goldmine è anche il titolo di una celebre canzone di David Bowie e racconta la storia del glam rock, inteso come movimento culturale, attraverso le vicende di un fantomatico cantante che si ispira in modo evidente alla vita e agli eccessi di David Bowie. Si capisce facilmente come una figura così trasgressiva, assorbente, vedendo l'immagine della giovane e bellissima Amanda, inguainata in una tuta di lattice con al guinzaglio una pantera, potesse esserne istintivamente attratto. Bowie è il maestro dell'ironia, dell'eccesso, della parodia. E l'ambiguità, anche sessuale, è proprio uno degli elementi che lo accomuna ad Amanda. You got crazy legs, you got amazing head, you got wings on your fingers and hair's hot red, you got a place on my tongue, name on the sun, I got you going to my breast, cause you're the only one. Ooh, it's good to pleasure, you make me act real calm, you make it solid long, and I'll rash your capsule, I'll suck you dry. Velvet Goldmine, you stroke me like the rain. Snake it, take it, and the princess you must stay. Velvet Goldmine, make it on your chain. I'll be your king, we'll pay no right for you again and again. My Velvet Goldmine. You're my taste of trap, I'll be your master, yeah. I'll stop your hair for cash, you make me jump. Watch your face, I'm falling on my kitchen. Ooh, clutch your makeup. Velvet gold mine, you stroke me like the rain. Snake it, take it, and the princess you must stay. Velvet gold. Destini incrociati. Destini incrociati negli anni 70, in pieno periodo glam rock. David Bowie, nel pieno del suo apice, leggenda della musica, ha notato una modella sulla copertina dell'ultimo album dei Roxy Music. È una donna che, fasciata da un abitino nero lucido, con fare sofisticato e annoiato, porta al guinzaglio una pantera. È Amanda Lear. Una modella amante dell'arte, della musica e dei musicisti, con una gran voglia di giocare con la trasgressione e l'erotismo. Una ragazza che ha una curiosità innata per le novità. Bowie non è solo una star della musica, è un performer, una figura emblematica, uno sperimentatore che elabora il suo corpo fino a renderlo infinitamente trasformabile. Ha mille identità, cambia volto, cambia nome. E ogni volta la trasformazione è legata all'uscita di un album. Ziggy Stardust e The Thin White Duke sono solo due dei suoi personaggi, e se il Duca Bianco è minimale e classico, all'opposto, l'alieno androgino Ziggy, coloratissimo e patinato, in bilico tra fantascienza ed erotismo, sfrutta fino in fondo l'ambiguità dei ruoli sessuali. Beh, io credo di essere una persona che può prendere dalle diverse persone che incontra. Cambio il mio accento a seconda di chi ho davanti, mi ritengo una specie di spugna. Assorbo dalle persone le idee. Io ho una filosofia di approccio molto minimalista. Ascolto. Questa ambiguità, questa tendenza all'eccesso, lo portano a riconoscersi istintivamente con Amanda. L'incontro tra i due è esplosivo. La vita di Amanda si accende e David trova in lei qualcosa che non ha mai trovato prima. Intuisce il suo potenziale espressivo, la sua forza dirompente, il suo carattere straordinario. La vuole. Dunque è da questo incontro, questo innamoramento di David Bowie, che è scattato la cosa della musica, perché fino adesso non ci pensavo neanche, facevo dunque la modella e infatti ero su questa copertina come modella. David Bowie poi mi ha detto: ma perché non canti? Ti metto sotto contratto. Ho firmato il primo contratto con il suo management, Tony DeFreeze, mi hanno prodotto il primo single, mi ha pagato le lezioni di canto, di ballo, eccetera, e per due anni sono rimasta lì nella scuderia di David Bowie ed è così che è iniziato tutto. Quella che state sentendo è Sorrow, una cover dell'omonima canzone dei McCoys fatta da Bowie, il cui videoclip protagonista Amanda Lear è un concentrato di erotismo. Amanda e David sono ormai insieme nella vita e nel lavoro. Nel 1973 incidono un album che dovrebbe essere la colonna sonora di Octobriana, un film ispirato a una serie di fumetti come Barbarella di Roger Vadim con Jane Fonda. Il film non viene girato, ma per Amanda la strada è comunque dritta verso il successo. Give a bit of to me and I give a bit of to you. Give a bit of to me and I give a bit of to you. And your eyes like a laser every time cut me deeper. You're a mystery, it's so confusing. You're a mystery. dreaming? Are you devil or angel? Are you question or answer? For you, I'll break all the rules. And for you, I'll go to the moon. 'Cause you're the one, there's no one else. For me, you are an enigma. For me, you are really a mystery. A mystery. Nel 78 la disco domina qualsiasi classifica, invade le radio, viene usata per gli spot pubblicitari e influenza pesantemente la produzione musicale di molti grandi del rock, come Rolling Stones, Rod Stewart, Elton John e naturalmente David Bowie. Ma le maggiori hit sono dei Bee Gees, che soprattutto grazie alla colonna sonora della Febbre del sabato sera con John Travolta nei panni del mitico Tony Manero, arrivano a vendere qualcosa come 30 milioni di album. Bowie per Amanda è un vero e proprio mentore, le indica la strada dell'esibizionismo, amplifica il suo istinto parodistico, le dona quella teatralità che lui stesso ha costruito negli anni. Il risultato è sorprendente. Amanda in poco tempo domina le classifiche, i suoi dischi sono venduti in tutto il mondo, lei è richiesta ovunque. La carriera di Amanda Lear non conosce ostacoli, è in continua ascesa, tour promozionali, concerti, televisione, tutti la vogliono. È eclettica, oltre che cantante, è attrice, conduttrice, pittrice. Ed è consapevole di essere diventata un'icona, un cult. È lei stessa a scherzarci. La settimana scorsa mi hanno chiamato, ma propongono di fare un duetto con Brian Ferry, un altro con Blondie o Debbie Harry. Cioè, non è finito, capisci? Rimango, il nome Amanda Lear rimane ancora sinonimo di cosa, cult, eccetera. E se la carriera di Amanda va a gonfie vele, la storia di Bowie ormai è nella leggenda. Va a Berlino, inizia le fertili e leggendarie collaborazioni con Iggy Pop, Brian Ferry e Brian Eno. Con lui inizia a lavorare alla trilogia berlinese, il cui capolavoro è Heroes. Tra Amanda e David è scoccata una scintilla che ha dato il via alla carriera di lei, ma i due caratteri sono forti. Difficile stare insieme a lungo. No, ho detto che si truccava più di me ed era la prima volta che uscivo con un ragazzo che si truccava tantissimo e soprattutto che non si struccava. Il grosso problema era di sporcare i cuscini nel letto, perché lui, io tutte le sere mi strucco come tutte le donne, e lui non si struccava perché si addormentava mezzo ubriaco e dunque mi sporcava tutto di cerone, di fondotinta, eccetera. Il loro è uno scambio continuo. Uno dei film più cari ad Amanda, Un scena andalù, realizzato dall'amico e amante Dalí insieme a Buñuel, avrà un forte valore simbolico nel rapporto fra David e Amanda. È lei a farglielo conoscere. Per lui sarà una rivelazione. Al punto che Bowie, nei panni del Duca Bianco, userà la proiezione del film come unica scenografia del suo tour mondiale più minimal. David Bowie, l'ho conosciuto, era un ignorante totale e ho dovuto... io insegnare a lui tante cose, però siccome un ragazzo molto sveglio, e questo ammiro assolutamente questa voglia di conoscere delle cose, di scoprire delle cose, dunque gli ho fatto conoscere, non so, l'espressionismo tedesco, i Metropolis, i film di Fritz Lang, il surrealismo, da lì un sacco di cose che lui non conosceva e che immediatamente lui ha voluto approfondire. Dunque questa è una grande qualità di David Bowie, forse gli ho portato un po' di queste cose che io conoscevo, e è stato uno scambio anche. David Bowie e Amanda Lear, due persone eccentriche, complesse, che si incontrano e si accendono. Lui assorbe la sua cultura, ma lei, grazie a lui, impara a cantare, a stare sul palco e a essere la protagonista della scena. È nata una regina. China girl, I feel a wreck without

Destini incrociati. A Destini incrociati, una ragazza curiosa, bella e trasgressiva vuole esprimersi attraverso tutti i codici degli anni 70. Arte, musica, pittura, moda. Sono gli anni della disco music, che diventa fenomeno di massa uscendo dalle discoteche e invadendo le classifiche di tutto il mondo. Amanda Lear è una delle star più richieste. Il suo successo è mondiale grazie all'incontro con David Bowie. E pensare che tutto è partito da una fotografia. Amanda è poliglotta, cosmopolita. Incide canzoni in italiano, francese e tedesco. E il merito è di David Bowie e di quella foto sull'album dei Roxy Music. Adesso il mondo è pronto ad accoglierla. Quando arriva in Italia per presentare Tomorrow, è un fulmine a ciel sereno. Tutti si chiedono chi sia, da dove arrivi questa donna bellissima e misteriosa, dalla voce profonda e lo sguardo da gatto che sa ballare, cantare e recitare in un modo mai visto prima. Welcome home, Lil Abner and Snoopy. Tarzan, great to see you again. È il 78, quando Amanda approda in Italia e debutta in televisione su Rai 2, nell'innovativo e controverso varietà Strix, dove in un'atmosfera quasi orgiastica e diabolica vige l'assoluta libertà espressiva, non senza espliciti riferimenti sessuali. Amanda ha appena posato nuda per Playboy. Non solo non si è mai curata dell'opinione pubblica, ma anzi si è sempre divertita a sbeffeggiare la morale borghese. Anch'io mi sento più bonna. No, buona, non buona, Amanda, buona, siamo buoni. Oh, che me ne frega di essere buona d'anima. Come quando, complice la sua voce cavernosa, iniziano a diffondersi dubbi sulla sua sessualità. Si dice che Amanda, con il nome d'arte Peggy D'Oslo, facesse spogliarelli e burlesque al Carousel di Parigi, nella compagnia della transgender Cosinelle, e poi avesse cambiato sesso negli anni 60. Lei non conferma né smentisce, quasi alimenta le voci, si diverte a far leva sulla provocazione, a scandalizzare i ben pensanti che non riescono ad accettare la rivoluzione dei costumi. Lascia che sia il tuo corpo a decidere dove vuoi andare, cantano gli ARC, un gruppo rock alternativo svedese. Amanda di certo ha precorso i tempi con la sua vena provocatoria e la tendenza a giocare lei stessa con quelle voci sulla sua presunta confusione sessuale. Abbiamo fatto una festa natalizia, ci siamo scambiato le regali di Natale. Regali? E tu cosa hai regalato? Il mio corpo. Il tuo corpo! Era Il brutto anatroccolo, programma condotto da Amanda con Marco Balestri, in cui le persone non contente del proprio aspetto si sottopongono a interventi di plastica estetica. Nelle puntate si celebra la trasformazione, l'estetica e la chirurgia come soluzione. Amanda non è mai stata un brutto anatroccolo, ma di certo il suo corpo ha giocato un ruolo fondamentale per tutta la sua vita. Un corpo che cambia, subisce molteplici evoluzioni. All'inizio il suo è un corpo muto, di modella, non interpreta, non agisce, si lascia immortalare. Poi si evolve e diventa un corpo dinamico, erotico, eccitante, un corpo parlante. Una voce mascolina, quella di Amanda, che ha favorito le chiacchiere sulla sua ambiguità sessuale, eppure talmente di casa in Italia da diventare quella di un personaggio di un film d'animazione per bambini. Negli incredibili blockbuster della Pixar del 2004, l'artista diventa Edna, la stilista dei supereroi. Questo progetto mi ha completamente confiscato la vita, tesoro. Mi ha consumata come solo un lavoro da eroe riesce a fare. Il mio capolavoro, lo ammetto, semplice, elegante, pure importante. Edna, sono felice di vederti, ma devo dirtelo, non so proprio di che cosa stai parlando. No, hai ragione, le parole non servono. Bla bla bla bla bla bla. Sì, blattera troppo, tesoro, troppo. Tutti sono attratti da lei, perfino quelli che sembrerebbero i più distanti dal suo modo di essere. Succede infatti che nell'88, esattamente 10 anni dopo il successo strepitoso di Tomorrow, i CCCP, fedeli alla linea, le chiedono di fare una cover in cui Amanda duetta con Giovanni Lindo Ferretti. I CCCP sono uno dei principali gruppi punk rock italiani di tutti i tempi. Politicizzati, impegnati, si contrappongono in modo netto allo spirito leggero e colorato della disco dance. Eppure vogliono Amanda. Lei accetta la sfida, si reinventa, capisce che questa collaborazione è un attestato di stima. Canta uno dei loro maggiori successi, Inshallah ça va. L'effetto è spiazzante. Mais ces progrès dont notre âge se vante, dans tout ce grand éclat d'un siècle éblouissant, qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Gli anni Ottanta cominciano quel fenomeno di riciclo di elementi culturali di altre stagioni che oggi è alla base della creazione artistica. Noi torniamo alle origini della disco dance e al fenomeno Amanda. Lei è camaleontica, perfettamente a suo agio in ogni ambiente. Sa essere chic e kitsch, erotica e ironica allo stesso tempo. È una figura chiave per quegli anni, di cui interpreta i valori, trasgressione, ambiguità, lotta al modello borghese. Amanda adesso è capace di stare in piedi da sola dal punto di vista artistico. Per numerosi anni l'artista si muove tra la Francia e l'Italia. È proprio il bel paese che l'accoglie a braccia aperte regalandole le maggiori soddisfazioni. Un'Italia che nel nuovo secolo si chiude in se stessa e abbandona quel simbolo trasgressivo per immagini certamente più rassicuranti. Per Amanda c'è spazio solo come opinionista televisiva, al pari di veline e personaggi da reality. Quell'italietta furba e provinciale non si accorge che perdendo Amanda perde un'occasione, una figura rara. Amanda è delusa, ma non resta certo ad aspettare. Sono in Francia da un anno in teatro a Parigi, tutte le sere, con una commedia che ha un grandissimo successo e che continuerà ancora per un altro anno. Ho cominciato a scrivere una serie a tele televisiva, un film, un telefilm, o altre due cose in teatro, dunque penso che per i prossimi 10 anni almeno c'ho da lavorare come attrice. Ecco. Non bisogna fermarsi mai. Questa è la vera trasgressione. Continuare a provare e cambiare, come David Bowie e Amanda Lear. Entrambi trasgressivi, provocatori, nemici del perbenismo. Due personaggi così diversi e così simili, tutti e due icone del secolo, che hanno saputo portare un messaggio di libertà vestiti di lustrini e paillette. Perché hanno confuso le idee e dimostrato che le etichette sono solo artifici che si possono smontare in un attimo. Perché si può essere se stessi anche nei panni di un altro. Perché nel cambiamento continuo è il segreto dell'eterna giovinezza. Still don't know what I was waiting for, and my time was running wild, a million dead end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me. I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Change it. Turn and face the strain. Change it. Don't wanna be a richer man. Never leave the stream of warm and permanent sand.